Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Proprio quella notte di agosto, mentre tornavo a casa, tra Grosseto e Marina, mi finisce la benzina. La strada era deserta, c'era solo la campagna e nemmeno i grilli a cantare. Quella zona è tutta in pianura, solo erba alta e cielo stellato senza luna. Sono rimasto fermo lì per quasi un'ora, impaurito. Non mi sono mai sentito così solo. Mi chiamo Roberto, vivo a Palermo. Sono un artigiano dal 1982, sono sposato e ho due figli. Durante un viaggio di lavoro, lungo l'autostrada dei Fiori, l'auto decide di tirare le cuoia, lasciandomi fermo in curva e in galleria, la classica galleria killer ligure. Ascoltavo su Isoradio Ostacolo pericoloso in galleria, vedevo Tir suonare i clacson furiosi sfiorando la mia auto e comprendevo che ero io l'ostacolo pericoloso. Mi tolse anni di vita e mi donò qualche capello bianco in più. Potevo veramente diventare un punto rosso sull'asfalto, Francesco. Sono le 16:07, questa è Radio 24, è un giovedì 29 di novembre 2012 ed è abbastanza comune, si vede anche dai messaggi che sono arrivati, che probabilmente avendo noi nel mondo occidentale moderno, in questa Italia del 2012, in Europa, comunque in questa parte del mondo, avendo noi una vita abitualmente scarsamente avventurosa, insomma, non abbiamo un palinsesto quotidiano che è abbastanza regolare, salvo qualche eccezione, più o meno la vita scorre normale giorno dopo giorno. Ecco, quando hai una vita poco avventurosa, basta rimanere in panne una volta per ricordare quell'avvenimento come forse uno degli avvenimenti più avventurosi e più ricchi di pathos della nostra vita. 349-238-6666 oppure il profilo Facebook Voi Siete Qui Radio 24. C'è anche un profilo Twitter, se avete voglia di andarci, che è Voi Siete Qui R24, giusto? Non ce la posso, non mi vedo mente, ma Margherita Inna mi conferma. Voi Siete Qui R24, dai, che non lo gestisco io il profilo Twitter, lo gestisce Margherita e Bonini, guarda più quello Facebook, per raccontare la vostra piccola avventura causata da, appunto, da un'auto che rimane senza benzina, da una ruota che si svita, oppure, come nel caso di Laura, addirittura il carburatore. Laura scrive: bene, so che riderete, abitavo in Francia allora, stavo andando a Milano a trovare i miei. Ero appena uscita dal tunnel del Monte Bianco. A ogni colpo di freni la macchina si spegneva. E già, questo ti fa capire che c'è qualcosa che non va. Rimettevo in moto fino alla frenata successiva e credetemi, scendendo il bianco, guarda Laura, ci possiamo credere sinceramente, scendendo il bianco di frenate se ne fanno tante. Ho fatto i fari al tir che mi precedeva e ho messo la freccia a destra. Il camionista è sceso, ha aperto il cofano, ha spalancato gli occhi e mi ha detto: si è svitato il carburatore. Me lo ha riavvitato alla meno peggio e ce l'ho fatta ad arrivare a Milano. Tra il casello e casa dei miei ho frenato 29 volte. Il bello è stato quando sono andata dal meccanico, un amico di lunga data. Che ti succede? Mi chiede. Mi si è svitato il carburatore, rispondo. Lui ride divertitissimo e mi dice: dai, non dire stronzate. Poi apre il cofano, lo vede, in silenzio è andato a prendere la macchina fotografica e si è fatto il segno della croce. Ecco, non ci vuole per forza un meccanico che si faccia il segno della croce nel vostro caso. Se però siete rimasti in panne e avete vissuto un'avventura particolare, perché a quel punto, appunto, no, si parlava di palinsesti della giornata, lì succede qualcosa che lo trancia quel palinsesto, gli dà fuoco, lo brucia, lo taglia e bisogna riordinare tutto, perché per i primi 5 minuti dici: ma devo fare questo, devo fare quell'altro, c'è un appuntamento, devo andare a prendere il figlio, la moglie, la fidanzata, e poi dopo che 5 minuti il problema è che devi semplicemente toglierti da lì, trovare un modo per andartene. 349-238-6666. Nel caso in cui, guarda Paolino, toglimi la base un secondo, nel caso rarissimo in cui ci fosse qualcuno che adesso alle 16:10 di giovedì 29 novembre 2012 fosse in panne, ovunque, a bordo di un'autostrada, oppure ha già chiamato i soccorsi e li sta aspettando, è davanti a un meccanico in attesa che gli aggiustino la macchina, ha la radio accesa, ci sta ascoltando, 800 24 0024, vale anche al telefono. Dove siete e perché siete rimasti in panne? Solo però se siete realmente in panne. Questa è accaduta 37 anni fa ed è la storia di Roberto. Mio padre, dopo la laurea in medicina, si era risposato e aveva spedito a diverse scuole in Italia domande di supplenza. Dopo alcuni spostamenti, lui e mia madre si sono stabiliti a Grosseto, che a quei tempi era una cittadina tranquilla, di pochi abitanti. Quell'estate del 1975 io l'ho voluta trascorrere tutte con i miei amici grossetani, ragazzi della periferia dove anche io sono cresciuto. Quindi sono partito con un'Honda 350 4 cilindri rossa e con qualche lira che mi aveva regalato mia nonna per il fatto di essere stato promosso alla quinta liceo. Quei soldi però, anche se ero ospite a turno a casa di amici, verso la fine di giugno stavano per finire e io non volevo tornare in Sicilia. Ho cercato un lavoro, come avevo già fatto altre volte, e l'ho trovato a Marina di Grosseto, la località balneare più vicina alla città. Ci dista 12 chilometri. Alla pensione Lola, un piccolo albergo a gestione familiare. Adesso sono un artigiano del vetro e lavoro le vetrate, per intenderci vetrate queste che si usano anche nelle chiese o anche in arredamento, queste vetrate con mosaico di vetro colorato, con raffigurazioni di santi nelle chiese oppure altro genere di vetrate artistiche per l'arredamento. Io ero cameriere in sala, avevo la stanzetta per dormire e una volta alla settimana un giorno libero. Una sera con alcuni amici abbiamo fatto le ore piccole davanti al bar dello sport, che anche se chiudeva lasciava comunque fuori sedie e tavoli. Parlavamo del più e del meno e anche di storie paurose, fantasmi, spiriti. Quelli che si diceva fossero rimasti in una villetta lì vicino, dove era avvenuta una strage familiare. Proprio quella notte di agosto, mentre tornavo a casa tra Grosseto e Marina, mi finisce la benzina. La strada era deserta. C'era solo la campagna, nemmeno i grilli a cantare. Quella zona è tutta in pianura, solo erba alta e cielo stellato, senza luna. Sono rimasto fermo lì per quasi un'ora, impaurito. Non mi sono mai sentito così solo. In più era evidente che intorno pullulava di fantasmi, no? Era notte fondissima quando due fari da lontano mi danno speranza e al contempo però anche preoccupazione, perché vai a sapere chi incontri di notte. Erano i fari di una due cavalli Citroën, macchina mitica tra i giovani di quel periodo. E non la guidava una persona qualunque, ma la ragazza più bella della città. Ragazza che noi tutti conoscevamo, almeno di vista, perché era la proprietaria dell'unica boutique di Grosseto che allora vendeva fiorucci. Lei si fermò e io potei chiederle di cercare nell'elenco telefonico il numero di un mio amico a cui dire quanto era successo. Parliamo degli anni 70, quindi non c'erano i cellulari e insomma trovare una cabina era pure complicato e normalmente Grosseto, essendo una città piccola, in questa città non c'era bisogno di telefonarsi, ci vedevamo al bar, insomma non avevamo gli strumenti di comunicazione che abbiamo oggi, per cui non avevo un'agendina in tasca con i numeri di telefono dei miei amici. E lei lo fece, mi salvò dalla strada perché avevo potuto chiamare Franco, detto Draculino per via dei suoi canini troppo pronunciati. Franco si era alzato alle 3 di notte per portarmi un litro di benzina. E non dimentico neanche la faccia che ha fatto quando è arrivato e mi ha visto lì, con quella specie di Madonna su quattro ruote, che aspettava il soccorso prima di sparire per sempre nel buio della notte. Rimanere bloccati per strada in moto o in macchina è capitato praticamente a tutti prima o poi. Per una ruota bucata o per un radiatore rotto o staccato, ad esempio, oppure per il sistema elettronico saltato. Volendo si potrebbe fare una gara a chi ci è rimasto più volte in panne o nelle condizioni più sgradevoli, tipo nella neve, in aeroporto, al primo appuntamento o in coda in autostrada. Io ne ho una che è particolarmente ridicola e risale a quando più o meno giocavo a pallacanestro. Era il 1996 e la partita tra la mia squadra e l'Azzurra Cuggionese era in una palestra quasi in campagna. Ecco, devo dire che quando dico che giocavo a basket non è verissimo, perché in quella squadra io ero semplicemente in panchina. Diciamo che per quel poco che ho giocato, giocavo negli allenamenti. Però quando c'era il campionato, niente, stavo seduto e guardavo gli altri. Facevo robe tipo segnare le statistiche o passavo l'acqua agli asciugamani e stavo con i miei amici. Giocare però poco. Comunque, ero lì seduto al mio posto, sul bordo della panchina, quando Luca, uno della squadra, si fa male a una mano. Non ricordo più se era un contatto troppo forte contro il pallone o contro un'altra mano. Dito lussato, forse rotto. Ha male e non sa come fare. Mettiamo il ghiaccio e la partita ricomincia con lui seduto di fianco a me in panchina. Però non è per niente tranquillo. E allora gli dico, boh, forse dovresti andare al pronto soccorso. Noi siamo a piedi perché siamo venuti in auto con Federico, che intanto sta giocando. Io ho il foglio rosa e nessuno di loro può guidare in questo momento. Ma non possiamo nemmeno chiamare un'ambulanza, perché non è una questione di vita o di morte se si è lussato un dito. Allora mi alzo e dico, guido io, così almeno servo a qualcuno. Se no, che cosa ce l'ha a fare il foglio rosa? Prendo le chiavi dal giubbotto di Federico, che da lontano mi dice che ok, ci vediamo più tardi al pronto soccorso. Faccio le borse mia e di Luca e partiamo. Non dobbiamo fare tanta strada, però è buio e io non guido benissimo, quindi vado molto piano. Luca mi suggerisce una scorciatoia, passiamo tra le risaie, così magari arriviamo prima che c'ha male lui. Tutto è a posto, fino a che la macchina a un certo punto semplicemente si ferma. Prova a riaccenderla, ma niente, nessun segno di vita. Luca impreca fortissimo e io cerco di fare qualcosa, ma non c'è niente da fare. In quella strada, tra i campi, di notte non ci passa nessuno, ovviamente, quindi rischiamo di stare lì fino al giorno dopo. E allora penso che è meglio forse se scendiamo e ci incamminiamo. Arriviamo alla prima cascina, suoniamo alla porta. Per fortuna c'è una famiglia gentile e c'è un contadino che ci sa fare e stecca il dito di Luca e poi, siccome lo vede nervoso, comincia a versargli grappa. Poi ci accompagna la macchina con una specie di mietitrebbia, una roba enorme che va lentissimo e fa un rumore pazzesco. Luca nel frattempo è ubriaco e non sente quasi niente, anzi ride e dice che vuole giocare ai soldatini, credo, perché gli sembra di essere su un carro armato. In lontananza a un certo punto vediamo la macchina con intorno altre luci. E allora, boh, penso che forse c'è qualcuno bloccato perché in due su quelle stradine non si passa. Ma quando arriviamo ci accorgiamo che c'è Federico, che si era fatto accompagnare dall'allenatore, e anche loro avevano fatto la scorciatoia. E tutti e due erano preoccupatissimi perché hanno visto la macchina abbandonata e nessuno intorno. Quindi avevano i calzoni tutti bagnati, che si vedeva che erano bagnati perché avevano messo i piedi nella roggia probabilmente, che c'era di fianco alla strada, perché, boh, chissà cosa pensavano. Luca intanto non stava più in piedi e biascicava parole su com'è bella la campagna di notte con il suono delle rane che gli ricordavano la sua fidanzata Luisa e il male al dito che non sentiva più. Io invece mi scusavo con tutti perché pensavo di aver fatto qualcosa di sbagliato mentre guidavo. E Federico nel silenzio guarda noi, il contadino e l'allenatore, e dice che forse doveva avvisarci che la spia della benzina era rotta. E io gli rispondo che sì, sarebbe stato meglio, ma tanto che se ne frega, c'ho solo il foglio rosa. Scatters and the seabird sings. So why should we fear what travel brings? What were we hoping to get out of this? Some kind of momentary bliss. Nel cratere del Nemrut Dagi, vicino alla città anatolica di Van, ho forato e subito dopo mi sono accorto che l'auto che avevo noleggiato non aveva più i cerchi di serie, ma altri nuovi in lega, nei quali però la chiave non passava e non potevo sostituire la ruota. 349-238-6666, c'è stata una volta in cui siete rimasti in panne ed è stata probabilmente memorabile. Tra l'altro l'autore di questo messaggio, che è Marco, ha linkato anche la foto del posto in cui si trovava, cioè nel cratere del Nemrut Dagi, credo che sia si dica così, immagino in Turchia, visto che si parla di Anatolia. 349-238-6666. Non era in Anatolia e non era nemmeno in un cratere, era semplicemente tra Grosseto e Marina di Grosseto, Roberto, quando la moto lo ha abbandonato. Pronto, Roberto? Sì, pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, bene, non c'è male. Mi senti? Mi senti bene, Roberto? Sì, bravo. Benissimo. Dove ti trovi? Dove ti trovi? Ho avuto un attimo. Dove ti trovi, Roberto? Per adesso sono qui a Palermo, nel mio laboratorio, proprio seduto davanti al computer, ho spento la radio per non fare l'innesco. Bravissimo, bravo. Ho ascoltato la mia storia, che già conoscevo, ovviamente. Beh, avendola scritta tu, diciamo, è stato nuovo riascoltarla, diciamo, immagino insomma, no, anche se era la non, stessa, puoi dirci tutto, fa. Roberto, senti, Roberto, raccontaci di quella notte. Allora, innanzitutto siamo tra Grosseto e Marina di Grosseto, sì, giusto? Siamo a Grosseto, Maremma, Marina, quindi, di Grosseto, nel 1975, cioè parliamo di un bel po' di anni fa. Guarda, è l'anno della mia nascita, quindi 37 anni fa esattamente. Ecco, perfettamente d'accordo. Quindi, come diciamo, forse tu avevi già letto, avevo detto, non c'erano nessun tipo di mezzi di comunicazione senza fili, per cui se uno non aveva un telefono con la stava lì in sostanza. Esatto. Quindi arriva, andiamo al dunque, arriva questa Citroen due cavalli con questa donna bellissima. Sì. Questa donna bellissima che fra l'altro si è anche fermata, cosa che io lì non ho detto perché io ero preoccupato, ma non era obbligatorio che lei si fermasse. Cioè ti ha tenuto compagnia? Eh? Ti ha tenuto compagnia lei? Sì, è stata un po' con me, anche perché io ero veramente, un ragazzino, avevo 19 anni, 20 anni forse non li avevo ancora compiuti, quindi mi sono ritrovato in uno spazio molto ampio e completamente solo, perché lì era proprio una zona completamente disabitata. Certo, quindi immagino. Non c'era veramente nessuno, avevo solo come luce il faro della moto che accendevo però 5 minuti per non far scaricare la batteria, altrimenti sarei rimasto poi completamente in panne. Una serata estiva in Maremma che si era trasformata nell'apocalisse. Poi vabbè, è arrivato Draculino e ci siamo salvati, giusto? Amico Franco che si è alzato di notte con gli occhi ancora ci aveva le... Che salutiamo magari, no? Franco magari l'ascolto. No, io non ho, purtroppo non ho più i numeri di telefono, insomma, non so, alcuni amici di Grosseto li sento, però lui in particolare non l'ho sentito più, non so neanche da allora, tra l'altro. Senti Roberto, tra l'altro, e veniamo a oggi, tu non li senti più gli amici perché tu adesso vivi a Palermo, giusto? Perché sei palermitano di fatto. Io vivo a Palermo ormai appunto dal 1974, perché io nel 75, come dicevo, ho voluto ritornare a Grosseto perché a fare l'estate. Praticamente tutti gli amici di infanzia e di quell'età, per cui ero molto legato a tutti loro. Immagino. Con alcuni sono ancora in contatto tramite ormai Facebook, un bel po' li ho ritrovati. Il Draculino purtroppo no. Però... Senti Roberto, però invece parliamo di una cosa che a me interessa di più, ed è che tu fai un lavoro molto particolare, mi dicevi prima, sei un artigiano del vetro. Io faccio, certe volte non so nemmeno come chiamarle, perché comunque nel termine tra di noi che facciamo questo lavoro, parlando vetrate artistiche, già tutti capiscono, però non è un termine, non faccio il falegname, per cui uno dice fai il falegname, fai il legno, certo, non fai neanche il vetraio che semplicemente monti i vetri, giusto? Esattamente. E non faccio neanche il vetraio perché significa, è un lavoro più di tipo industriale. Chiaro. Dipingo sul vetro e lo metto nel forno, faccio delle vetrate istoriate, con delle storie, normalmente sono storie di santi perché noi abbiamo una tradizione della chiesa. Per cui quindi il cliente sono chiese più che altro? I clienti una volta erano chiese, adesso anche le chiese, i finanziamenti non ne hanno, perché di solito avevano i finanziamenti anche dalle regioni per abbellimento eccetera, e adesso c'è meno trippa per tutti. I soldi che raccolgono giustamente li danno alle persone che ne hanno bisogno, che non hanno Senti, Roberto, poi purtroppo ti devo salutare, abbiamo davvero pochissimo tempo. Prima mi dicevi però, questa cosa io la racconterei perché racconta qualcosa di questo paese, che adesso c'è pochissimo lavoro, c'è quasi niente, e quindi tu ti stai preparando per fare il concorso per insegnare a scuola, giusto? Perché sei architetto tu. Io a 56 anni, io devo dire, forse poco fa non te l'ho detto, io un concorso a cattedra l'ho vinto, l'avevo già vinto, eri già insegnante. Sì, ho rinunciato perché questo lavoro mi aveva entusiasmato, Ci credo, immagino. Ho rinunciato a malincuore comunque, perché credo che l'insegnamento sia una delle professioni più belle. Immagino. Purtroppo devo andare, però la sostanza è che tu stai studiando anche in questi giorni per fare il test, che sarà quando esattamente, Roberto? Allora, perché va bene che ormai tutti quelli che parteciperanno lo sanno, i test sono il 17 e il 18 dicembre. Benissimo. Sessioni durante la giornata e sono 50 quiz praticamente che vanno risolti in 50 minuti. Ammazza. 35 sono le domande proprio minime tutto mi vuole... per essere ammessi. Ok, senti Roberto, è tra meno di 3 settimane, io ti faccio un sacco di in bocca al lupo e sono sicuro non lo dico mai, sono sicuro che vada bene. Grazie, non lo dico neanche stavolta. Sarà occasione per raccontare un'altra storia. Bravo. Magari fra un'altra trentina Bravo. D'anni. Ma magari anche prima di 30. Grazie vabbè, Roberto. No, vabbè, facevo il riferimento con quella. Che con quella, certo. Grazie Roberto, in bocca al lupo. Matteo. Ciao. È stato bellissimo. Benissimo, ciao. Anche per me, ciao. Anche per me. Ciao. È straordinaria la foto di Roberto che ci ha inviato e che trovate, a breve troverete, c'è ok, che è stata appena caricata sul sito di Radio 24 alla pagina di Voi Siete Qui. È una foto d'epoca probabilmente, d'epoca quanto la sua moto e quanto la storia che ci ha raccontato. Credo che abbia una trentina d'anni fa. E sono quelle foto che quando le vedi, se è tipo tuo padre, non lo riconosci, anche se è tuo padre appunto. Ha un casco di capelli in testa splendido, scurissimo, nero scuro, dei baffi da cartello colombiano oserei dire, e un giubbotto pesante, non so, dovete, con degli inserti di lana e di probabilmente di cuoio, non saprei dirlo, però veramente sembra un po' Ivan Zamorano, perché per chi se lo ricorda, Roberto in questa foto sembra un po' Ivan Zamorano. Panne. Sostantivo francese singolare. Arresto improvviso di un mezzo di trasporto dovuto a un guasto. In panne. In momentanea impossibilità di agire. Etimo. Stesso etimo di panna. Derivato del latino pannus, panno. Data 1905. 800240024. Io sono sicuro che in questo momento c'è qualcuno che è rimasto in panne, che ha la macchina ferma, che non può partire, che gli sta saltando tutti gli appuntamenti, che non riesce a tornare a casa, che il carattrezzi non è ancora arrivato, che gli sfrecciano di fianco. 800240024. Ci abbiamo qualche minuto per fare quattro chiacchiere. Voi direte: e cosa mi serve? A niente ti serve, però almeno passiamo il tempo. 800240024, cioè voi, tu lo passi, noi lo passeremo comunque. Due volte a secco con il prismone lo stesso giorno, scrive Emanuele da Brescia, o Manuela da Brescia. Il prismone immagino sia la Lancia Prisma, la Prisma, il prismone. E poi dicono che solo la Duna era una brutta macchina. La mattina 10.000 lire di benzina e la sera rimane a secco per la seconda volta. E poi, in viaggio verso l'Olanda, salta la pompa della benzina. Per ripararla spendiamo 1.200.000 lire, probabilmente più di tutta la vacanza. Al ritorno salta ancora. Fermi in Germania, a casa ci riportano i miei genitori venuti a prenderci in camper. Eravamo in 5. Si parla di rimanere in panne. Ah no, aspettate, poi un attimo solo. Devo chiedere scusa a tutti quelli che hanno una vita molto avventurosa e ai quali ho detto che la nostra vita è una vita semplice, regolare ed è avventurosa solo quando rimaniamo in panne. E per chiedere scusa a tutti chiedo scusa nella fattispecie a Marco da Vicenza, che finalmente è tornato, si è rifatto vivo e mi fa presente che lui sì è un macio come lo sono in pochi, perché altro che poca avventura, cosa ne sai, mi scrive. Io sono stato in Thailandia per lo tsunami del 2004 e 3 spari in macchina con morti. Olè, Marco, scusami, non, davvero, guarda, non volevo dire che non è una vita avventurosa, lungi da me. Qualcuno scrive: la due cavalli io ce l'ho ancora oggi, ho girato tutta l'Europa e non mi ha lasciato a piedi. Poi c'è uno che mi scrive, non ho capito se gli è successo adesso, Andrea da Udine. Autostrada, corsia di sorpasso, pneumatico di un tir sulla strada, sfiorato. Io sono qui, Andrea, e noi siamo qui con te. Questa storia dei pneumatici che saltano ai tir sull'autostrada, però, perché loro hanno un'anima d'acciaio, mi pare la storia, no? Che i pneumatici dei tir, tutti di là fanno finta di niente, adesso la racconto io, hanno, credo, insomma, sono durissimi, sono tipo un pezzo di legno, quindi se lo becchi è, anche se è sfaldato e se è tutto rotto, credo che sia molto molto pericoloso. E ogni tanto capita di vedere qualche pezzo, di prenderlo anche sotto la macchina. C'è un'altra storia che mi è piaciuta particolarmente e che mi ha inviato Raffaele. È una storia che parla di rimanere in panne, però che dura tutta una notte e potrebbe avere come titolo, ma potrebbe avere, in realtà gliel'ha dato lui, Quella notte sull'Appennino. Agosto 2005. Viaggio Salerno-Mantova per un nuovo lavoro. All'altezza di San Piero in Bagno, pieno Appennino, la mia Punto va in tilt. Guasto elettrico, finestrini abbassati, accensione morta. Due ragazzi rumeni mi vanno a comprare i cavi e non vogliono nemmeno i 10 euro spesi, segno che dovevo far loro davvero pena. Ma niente da fare, non parte. Bisogna chiamare il carro attrezzi. Detto fatto, arriva un uomo di mezza età che mi carica e mi porta a San Piero, ma non esattamente nel paese, bensì in cima a una montagnola e mi lascia lì davanti all'officina che, essendo domenica, è chiusa e lui se ne va. La notte che ho passato sull'Appennino, quella notte sull'Appennino, non è descrivibile. Luce zero, era un guasto elettrico. Freddo, coi finestrini abbassati di notte e tenuta da emigrante. Cena al buio da solo a base di mais e tonno rimediato nel portabagagli e chissà quali animali che gironzolavano intorno alla mia auto. Auto piena, ovviamente, carichissima, perché mi stavo trasferendo. La mattina dopo apro l'officina e mi accorgo che il proprietario è lo stesso tipo che mi ha caricato sul carro attrezzi e io rimango senza parole. Da Forlì arriva il pezzo da sostituire. Il totale è di 800 euro e una brutta figura col mio nuovo capo che non ha creduto alla mia disavventura. Ogni volta che passo da lì, ora che non lavoro più a Mantova, ho ancora un brivido nella schiena per quella notte sull'Appennino. Like home, like a stone, and I feel heavy into your arms. These days of dark. Wish we'd known we'll blow away with this new sun. But I. Questo pezzo si chiama I Will Wait, dei Mumford & Son, che sono un gruppo inglese al secondo album che ha, direi, veramente spaccato, come forse a pochi succede in questo periodo. Sono stati in classifica con questo disco qua dopo 5 giorni, primi Stati Uniti e Inghilterra. Noi li avevamo mandati un po' prima. Se ci fosse Bonini direbbe sì, però che noi li mandavamo in onda già da un po'. 349-238-6666. Visto che stiamo parlando di musica, rispondo anche a un messaggio che due messaggi che sono arrivati, che mi chiedevano invece qual era la base di prima. Non ce l'abbiamo la basettina di prima, quella di John Butler. Quel pezzo lì, che è un pezzo di chitarra molto bello, si chiama Ocean, e il musicista si chiama John Butler, sarebbe John Butler Trio, sarebbero in tre. Lui però è un chitarrista australiano. È un chitarrista australiano, ecco, questo è il pezzo, grazie Paolino. È un chitarrista australiano nato in America che canta e suona. Questo è un pezzo strumentale di 12 minuti di sola chitarra che si chiama Ocean, che è meraviglioso. Facciamo una cosa, guardate, ve lo carico in questo momento preciso sul profilo Facebook, quindi se avete voglia di vederlo, voi siete qui, Radio 24, John Butler. È arrivato un messaggio che dice: sono rimasto a piedi tante volte, ma la più bella è stata la volta in cui sono rimasto senza benzina in mezzo al niente con un mezzo militare. La faccia del maresciallo me la ricorderò a vita. Purtroppo si era rotta la lancetta del carburante, non era colpa di nessuno, il reggimento più vicino era a 200 km. Ci siamo accesi un falò e ci siamo raccontati barzellette nell'attesa. Tutto sommato è stata una bella esperienza. Ma in assoluto il messaggio più rock and roll di oggi l'ha mandato Fiorella, che dice: qualche anno fa, tenete bene a mente l'età, qualche anno fa, io 27 anni, lui 17 anni, per un paio d'ore di passione sono rimasta senza benzina in aperta e desolata campagna, col cellulare scarico e senza un soldo. Erano le 3 di notte, non è passato neanche un lupo, mai avuta tanta paura in vita mia e mai più rivisto il mio amico di allora. Grazie a Paolino Corleoni, grazie a Margherita Ina, a Tiziano Bonini e grazie a Stefano D'Andrea. Grazie soprattutto a Roberto. La storia di oggi era la sua e anche lui è un punto rosso su una mappa. Ciao, sono Adriano Di Masserano, abito a Campagnola di Brugine e la storia di domani è la mia e parla di vendetta e si capisce il perché è un piatto freddo. Questa è la mia storia e io sono qui.